Dio è buono. Ripeti con me. Dio è buono, abbiamo un Dio incredibile. Quello che mi affascina di Dio è che usa delle persone ordinarie e le rende straordinarie alla sua presenza. È fantastico. True love, avevo paura a dirlo in inglese, anche perché ieri c'erano persone di varie nazionalità. True love, l'ho sentito dire in tanti modi, true love, true love. In tanti modi, comunque, è vero amore. Chi crede in Dio? Mamma mia. Guardate, va bene ed è politicamente corretto credere in Dio, ma amarlo veramente è tutta un'altra storia. Quindi il credere in Dio non sconvolgerà questo mondo. Il credere in Dio non cambierà la tua vita e la vita delle persone attorno a te. Quello che cambierà le persone attorno a te è semplicemente amare Dio. Ah, mi sono dimenticato, porto i saluti del mio pastore. Perché poi parto e volevo, davvero sono felicissimo di essere qui, perdonatemi, io con le presentazioni non... Io sto a Milano nella chiesa del pastore Roslen, il mio pastore mi ha detto proprio di abbracciare, salutare, ho già salutato i pastori ed è bellissimo. Io quando vengo qui mi sento a casa, ok? E non è solo la grafica, no? Benvenuto a casa. È bellissimo ed è veramente, sento l'amore di Dio qui. E io penso che quello che le persone debbano cercare in una chiesa è amore. Sapete quello che dico ai miei ragazzi, alle persone della mia chiesa? Noi dobbiamo, quando entrano le persone, devono vedere in noi un amore imbarazzante. Che ci guardano, vedono quello che fanno e dicono, mamma mia, mi sento in imbarazzo, tu mi ami troppo. E dobbiamo smetterla come chiesa di dare alle persone la scusa per non andare in chiesa o non credere in Dio. Avete mai sentito frasi del tipo, io credo in Dio, ma non nella religione organizzata. Io credo in Dio, ma non parlarmi di chiesa. Non penso che la gente direbbe così se la chiesa vivesse veramente nel modo in cui è chiamata a vivere. Diamo la colpa sempre agli altri. Ma non è una questione di colpa. L'amore è una responsabilità. Responsabilità. Oggi viviamo in un'epoca di rinunciatari. Si rinuncia a tutto. Ok, mi sono stufato della scuola, rinuncio a scuola, il mio datore di lavoro è così, e rinuncio e lascio il lavoro, mia moglie in questo modo e la lascio, e il mio amico non mi ha mandato il messaggio su WhatsApp, ho visto che l'ha letto ma non mi ha risposto subito, ok? Oppure ho visto che sta scrivendo e poi è scomparso, chissà cosa sta pensando in quel momento, siamo malati, cioè proprio iniziamo, l'ha letto, consegnato, letto, mamma mia non c'è più privacy, io ho paura a leggere i messaggi su Messenger, ok? Perché tutto quello che poi non risponderai sarà usato contro di te in tribunale. Perché non mi ha risposto? Guarda, stavo in bagno in quel momento, ho dovuto interrompere e guarda, stavo al semaforo. È difficile, perché tendiamo a pensare male e a rinunciare. Ormai la gente lascia le chiese così. No, ma hai visto come si è fatto il capello il pastore? Non è biblico. Ma hai visto che cosa... No, questa non è una sana dottrina. L'amore va al di là di tantissime cose, di tantissimi limiti che noi ci mettiamo. Questa è la società in cui i matrimoni stanno diminuendo e le relazioni sono interrotte con una spaventosa regolarità. Tutti si dividono, tutti si lasciano, tutti mollano, perché ormai non ci sono più quelle relazioni sane, è tutto virtuale, perché dietro uno schermo è facile amare, ok? È facile mandare i cuoricini. Siamo la generazione delle emoticons. Oppure siamo quelli lì che mentre tu scrivi, sei così. Tu scrivi, sto morendo dal ridere. E non esprimiamo, non esprimiamo più le nostre emozioni, non riusciamo più a mostrare il nostro affetto, a ringraziare, a onorare, a dire grazie, a dire scusa. Quelle cose che non sono banalità, sono quelle cose che possono cambiare realmente il mondo. Questo è l'amore che Dio ci sta chiamando ad avere. Oggi vorrei, quante persone sposate ci sono qui? Mamma mia, che... Ok, quante persone che vorrebbero sposarsi ci sono qui? Quante persone che ci hanno rinunciato ci sono? Ok. Ah, siete in prima fila proprio. Ok. Allora, poi faremo direttamente l'appello. Così, non c'è bisogno, chiamo direttamente, neanche venite avanti, siete qua, preghiamo per voi. Tanto siamo una chiesa che ama. Quello che voglio condividere con voi oggi, vorrei parlarvi del matrimonio, sia del matrimonio tra marito e moglie, tra esseri umani, sia quel matrimonio con Cristo. Noi siamo la sposa di Cristo. Questa relazione che è una relazione fantastica, ma non voglio darvi, sai, quei consigli tipo tre passi verso una comunicazione più personale, 6 modi per una vita sessuale più appagante, oppure 3 passi per una convivenza felice, oppure 4 modi per non dimenticare la tavoletta del water alzato. Non vi sto parlando di queste cose, ma perché tutte queste cose sono dei rimedi, ma soltanto in superficie. Molti pensano che i problemi del matrimonio siano la gelosia, l'orgoglio, i soldi, tutte queste cose grandi, importanti. Io, i problemi principali, le guerre più grandi nel mio matrimonio, le ho dovute fare quando bisognava decidere chi buttava la spazzatura. Questo maledetto tappino del dentifricio, lì. Ti capisco. I calzini lasciati per la casa. O la tavoletta. Ho detto, amore, togliamo questa tavoletta. Togliamola. No, amore, non si può perché poi è freddo. Però poi, ok, andiamo avanti, non è di questo che voglio parlarvi. No, scherzo, questi sono alcuni dei problemi che si vivono in un matrimonio. Ma vorrei darvi semplicemente una direzione. Stasera userò 3 punti. 3, soltanto 3. Ok? Se volete il quarto, alla fine sono qui, alla fine del gospel e del servizio, e vi darò il quarto. E allora, che cos'è il matrimonio per me? Il matrimonio, nella teoria, è la promessa di offrire se stessi. Prima di salire, volevo mandarti le slide, però non avresti fatto quella presentazione se l'avessi mandata ora, quindi non ti ho mandato nulla, le leggo. Ok, li ho scritti in elvetica. Il matrimonio è la promessa di offrire se stessi all'altro e di impegnarsi ogni giorno nel ricordarlo. Non è soltanto di offrire se stessi all'altro, ma bisogna ricordarlo ogni giorno ed impegnarsi nel ricordarlo ogni giorno. E la promessa nel matrimonio dovrebbe essere: ti prometto di offrirmi a te e mi impegnerò nel ricordarmi ogni giorno di averlo fatto. E prima, mentre pensavo a quello che volevo condividere oggi, ho chiesto a Dio, ti prego Dio, dammi 3 parole, dammi soltanto 3 parole. Lo Spirito Santo mi ha detto sole, cuore, amore. Anche lui ama questa canzone. Ha detto, dai Spirito Santo, dammi 3 parole vere. E lui ha iniziato a cantare. No, scherzo. E le 3 parole che vorrei condividere con voi, 3 punti, sono queste. Promessa, offerta e impegno. E si possono riassumere nella parola poi. Ripeti con me: poi, promessa, offerta, impegno. Alla fine di questa predica, quando succederà quello che succederà con tuo marito, digli poi. Okay? Quando ci saranno problemi, state per litigare, fermalo e digli poi. Ok? Ricordalo, poi capirai perché. Promessa o patto, promessa. Il matrimonio più di ogni altra cosa rappresenta l'impegno di Dio verso di noi, l'impegno. E mi viene in mente il patto di Gesù prima di andare sulla croce. Vi ricordate, Gesù prima di andare sulla croce ha chiamato i discepoli e ha detto: ragazzi, facciamo un party, ok? Facciamo un party, tu porta il pane, tu porta il vino, tu Giuda, vabbè non ti preoccupare, tu vieni lo stesso, ci penso io, ok? Porta i soldi, porta tutto quanto. E alla festa è bellissimo perché tu organizzi una festa, dici, ragazzi, sarà una festa fantastica, uno di voi mi tradirà. Che allegria, Gesù, cioè, è proprio è un modo per fare sentire uniti i tuoi discepoli, è proprio per creare team building, yeah? Ok? Per gli inglesi, questo. Vi ricordate quello che è successo nel film The Passion? O nei Vangeli, se magari bazzicate da quelle parti, nei Vangeli che Gesù dice in questo modo. A questo punto Gesù, profondamente angosciato, ripeté: proprio così, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono l'un l'altro e diceva: ma di chi stava parlando? E quello a cui darò un pezzetto di pane inzuppato, rispose Gesù. Poi prese un pezzetto di pane, lo intinse nel piatto e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Giuda si allontanò immediatamente e scomparve nella notte. Guardate, nessuno dei discepoli sapeva chi avrebbe tradito Gesù, se non nel momento in cui Gesù ha deciso di fare un patto. Tu non saprai chi ti è veramente fedele, vicino, amico, fidanzato, marito, leader nella chiesa, fino al momento in cui tu non farai un patto. E soltanto è solo a quel punto che Giuda decise di andarsene. Solo quando Gesù ha deciso di fare un patto. Perché? Perché che cosa succede? Oggi viviamo in una cultura dove si vuole intimità senza responsabilità. E intimità senza patto. Ok? E condivisione anche sessuale senza prendere impegni. E questa è la cultura in cui viviamo. Vogliamo piacere senza impegni. E poi vediamo più tardi che Giuda tradì Gesù con un bacio. Con una delle cose più intime che si potesse fare con un amico. Eppure lo stava tradendo e gli stavo dicendo: guarda, è stato tutto buono, siamo stati insieme 3 anni, abbiamo fatto miracoli insieme, io ero con te, ma nel momento in cui tu mi dici: guarda, è ora il momento di agire, è ora il momento di fare le cose seriamente, molta gente se ne andrà. E a me non mi sconvolgono le chiese piene, perché il punto non è venire in chiesa, il punto è cambiare la città dove la chiesa è. E venire in chiesa è un po' come servire Gesù per 3 anni. Poi nel momento in cui Gesù dice: andate per tutto il mondo e mettete sotto sopra questa città, è lì che si vede chi va. È lì che ti rendi conto chi è veramente la vera chiesa. È lì che ti rendi conto chi vuole intimità e stringere un patto con Dio. Il matrimonio è qualcosa di intimo. Quello che Dio ci chiede nel nostro matrimonio, anche nella nostra relazione con Lui, è una condivisione al 100%. Voglio mostrarvi che cosa significa. Vito, nel mio giubbotto, nella tasca, ci sono i pongo. Per favore. Voglio farvi vedere che cosa significa diventare una sola carne. Perché molte volte diciamo: ah, ma io sono così e tu sei così. Ah, ma tu sei così. No, voglio farvi vedere nel matrimonio cosa significa diventare una sola carne. Vorrei 3 volontari qui, Antonio, Noemi e Vito. Dividetelo, non è la Santa Cena, dividilo in 2, dividi anche questo, ok? È single. Ok, no, in due. Questo è per te. Allora, questo è lui. Lui chi? Lui è lo sposo, è Fritz. Ok? Questo è Fritz. E questo è Spritz. E questa è lei, ok? È donna, quindi? Sprizza. Sprizza, ok? Fritz e Sprizza. Uomo e donna, uomo e donna. Uomo e donna, sempre meglio specificare ai tempi di oggi, ok? Uomo e donna. E loro si sono sposati, il matrimonio secondo Dio, prima notte di nozze. Guardate Vito com'è pratico. Cioè, ragazzi, oh mamma, non era calcolato questo tipo di reazione. Ok. Non funziona bene, vabbè, ci vuole un po' di esperienza. Se tu sei a posto, tranquillo. Ok, vai. Noemi, come va? Insomma, un po' di difficoltà. È un po' di difficoltà. Ok. Basta, Vito, basta. Ok. Guardate, questo... Perché la Bibbia dice che il rapporto sessuale deve essere vissuto all'interno del matrimonio? Perché Dio è spirito e tutto quello che Dio crea, perché parte da Lui, è spirituale. Il sesso è qualcosa di spirituale e nel momento in cui tu ti unisci ad una donna avviene uno scambio spirituale. Guardate che cosa succede. Karen, puoi dividere uomo e donna, per favore? Quelli di Noemi, vabbè, ancora si possono dividere. Ok, vabbè, no, non ti preoccupare. Tranquillo. Forse non lo vedete, ma è impossibile riseparare nettamente le due persone, perché avviene uno scambio spirituale, avviene una condivisione incredibile nella vita della coppia. Grazie, fate un applauso ai tre sposi, grazie mille. Noemi, sì, puoi tenerlo per ricordo. Ragazzi, il matrimonio, quello a cui Dio ci sta chiamando. Ci vediamo dopo. Quello a cui Dio ci sta chiamando è veramente intimità. L'amore di Dio è un amore intimo. A volte non abbiamo forza perché non c'è intimità. Molti matrimoni falliscono perché non c'è quella vera intimità, quella vera condivisione, quel dire siamo una sola carne e soffriamo insieme. Uno studioso tedesco nel 1860 diceva così del matrimonio: il matrimonio è la reciproca volontà di due persone di assumersi la responsabilità l'una dell'altra. La promessa di fedeltà nel matrimonio non è una cosa facile, altrimenti non faremmo la promessa. Non è qualcosa di scontato. Promettiamo di amarci reciprocamente finché morte non ci separi, proprio perché siamo consapevoli del fatto che il nostro impegno sarà messo a dura prova. È per questo che chi ha fatto questa promessa? Eravate di più quelli sposati prima. Qualcuno ha detto, ma a me non ha detto, nessuno ha detto questo. Quel giorno nessuno mi ha detto questo. Ebbene è così. È un patto, è una promessa. È il matrimonio che tiene unito l'amore. E non è l'amore che tiene unito il matrimonio. E questo è l'errore che a volte facciamo. Non ti amo più come una volta. Vabbè. Tu hai fatto una promessa davanti a Dio, che è di amarti finché morte non ci separi. Gesù ci ha amato anche quando noi non amavamo. Quindi non è, non provo più quello che provavo prima. Non è un problema, facciamo di tutto perché il tuo amore possa riaccendersi. Lavoriamo insieme, vediamo quello che Dio può fare nella nostra vita. Ma non possiamo mollare così all'improvviso quando le cose vanno male. Perché vi sto dicendo questo? Perché le cose vanno male. O potrebbero andare male. Ci sono situazioni complicate, difficili. Io non penso, secondo me in ogni matrimonio ci sono dinamiche o problemi che devono essere risolti. Ed è la consapevolezza di questo patto che noi abbiamo fatto con Lui che fa sì che noi possiamo amare ogni giorno di più quella persona. Ed è in nome di quel patto che hai fatto che andrai a sistemare tutto. È una promessa. Vorrei chiedere a tutte le persone sposate di alzarsi, per favore. Non odiatemi, lo so. No, serio. Sono sempre di meno. Ok. Alcuni si sono lasciati in questo momento. Ha detto no. Qualcuno ha detto non permetterti ad alzarti. Ok, anche se non c'è tuo marito qui, alzati comunque, ok? O se non c'è tua moglie, alzati pure. Ricordo la storia, mi hanno raccontato la storia di quest'uomo, di questa donna, che è andata dal suo pastore per chiedere un consiglio. Ha detto, pastore, c'è mio marito che non mi dice mai ti amo. C'è mio marito che mi ha detto ti amo soltanto una sola volta in tutta la vita. Il pastore ha detto, guarda, ma che strano, ma come mai? Parlerò con tuo marito. Il pastore è andato dal marito e ha detto, scusami, ma come mai hai detto ti amo 20 anni fa, soltanto una volta in tutta la vostra vita matrimoniale? E l'uomo ha detto, pastore, io sono un uomo di parola. Le ho detto ti amo e se le cose sarebbero cambiate l'avrei avvisata. E molte volte nelle coppie funziona in questo modo, quindi ora ti chiedo, ok? Di guardare negli occhi tua moglie. Watch in the eyes. Guardala negli occhi. Puoi ridere, puoi piangere, oppure se non è qui, prendi il cellulare e scrivile. Allora, chi è qua? Guardala negli occhi e di ti amo. Se non è qui, prendi il cellulare e scrivile, ti amo. Se non c'è, chiudi gli occhi e digli, io ti amo e ti ho amata e ti ho amato. L'avete fatto? Rifatelo. Così vi abituate. Ti amo. Ti amo. Quello che ha detto il pastore. Ok, accomodatevi. Promessa, quindi, qual era la parola? Poi, ripetete con me. Poi, promessa. Dopo c'è la O. Cos'è? Offerta. Potete portare i cestini? No, offerta. Guardate cosa dice Filippesi 2. Non siate egoisti. Non fate niente per fare buona impressione agli altri. Siate umili, invece, considerando gli altri migliori di voi. Quella è la nostra descrizione. Non pensate soltanto al vostro interesse, ma preoccupatevi piuttosto di quello degli altri. Il Vangelo è così semplice. È così a prova di, che se noi vivessimo veramente quello, solo quello che c'è scritto, il mondo sarebbe già cambiato. O sicuramente tante cose sarebbero già diverse. Io non possiamo deprezzare il matrimonio riducendolo a un semplice impegno a non avere rapporti l'uno con l'altro prima del matrimonio. Poi appena mi sposo, ok, prendi quei pongo, vedi Vito, prendi pongo e... No, non possiamo deprezzare il matrimonio a questo. Il matrimonio è il dono reciproco l'uno all'altro che va al di là della fedeltà coniugale, della fedeltà sessuale. Quella è una diretta conseguenza. Il matrimonio significa io mi dono a te. Io mi offro a te, non tu mi servi. Tu mi servi. Non hai fatto la lavatrice, donna. No, amore, chiamami Signore. Nella Bibbia è scritto così. E darsi reciprocamente l'uno all'altro. La maggior parte delle persone non si sposa con l'idea di diventare servo. Servo, servire tua moglie. No, ma ecco, se già stai pensando al ma c'è qualcosa che non va, fa anche rima. Ok, dicevo che era un rapper prima, quindi certe rime mi vengono facili. Servi, servire l'altra persona, anche nel tuo rapporto con Dio. Come vivi il tuo rapporto con Dio? All'accendietto della lampada? Dio, le cose vanno male nella mia famiglia. Ti prego, aiutami, aiutami. Dio, Gesù, non ci deve più niente. Noi queste cose a volte non le capiamo. Io me le devo ricordare ogni giorno. Dio non ci deve più nulla. Ah, ecco, Dio non mi ha risposto. E allora lo lascio. E chi è che ci perde? No, giusto per... Ok, chi è che ci perde? No, io, hai visto, io ero malato e lui non mi ha guarito, io ero senza soldi e lui non mi ha fatto scendere i soldi dal cielo. Dio ti ha dato già tutto, noi dovremmo vivere il nostro rapporto con Dio, l'amore vero, e dire grazie. Grazie per quello che tu mi hai dato fino ad ora. Tutto quello che viene dopo è un di più. Grazie per ogni cosa. Grazie per i problemi, perché io lì che vedrò la tua gloria. Grazie per i problemi, perché è lì che io non mi sentirò solo. Grazie per i problemi, perché se le cose vanno bene, io non mi renderò conto che tu sei con me nella valle dell'ombra e della morte. È lì che Dio si manifesta alla tua vita. È nel deserto e nei problemi che tu vedrai la manifestazione di Dio. E il matrimonio viene spesso considerato come un vantaggio personale. Avete mai sentito frasi del tipo: sono venuti dei ragazzi da me, pastore, ho bisogno di qualcuno, di qualcuna, maschio, femmina, non importa, guarda, pastore, ti prego, prega per me. Perché ho bisogno, dobbiamo recuperare il matrimonio come una delle condizioni esistenziali più altruistiche che il cristiano deve abbracciare. Il matrimonio è, finalmente, so chi pulisce, so chi lava, so chi... Dividiamoci i ruoli. Tu fai questo, io faccio quello. E non sgarrare, se no vado dal pastore e ti minaccio. Pur essendo in forma di Dio, spogliò se stesso prendendo forma di servo. E benché fosse Dio, mise da parte la sua straordinaria potenza e la sua gloria, assumendo l'aspetto di servo. Guardate cosa ha fatto Gesù. Ha fatto un patto con i discepoli, promessa. Ha offerto tutta la sua vita, offerta. E si è impegnato a risorgere per non abbandonarli mai. Il matrimonio non è una richiesta. Vuoi metterti con me? Vuoi sposarti con me? E sono le frasi che diciamo quando chiediamo di sposare a qualcuno. Secondo me si dovrebbe dire: vuoi ricevere quello che io ti sto offrendo? Vuoi ricevere la mia vita in dono? Non è: vuoi sposarmi? Vuoi questo? Io ho bisogno di te. No, vuoi ricevere la mia vita per te? Il momento in cui ti sposi, e questo lo dico anche a quelle persone che si stanno per sposare o che si sposeranno, e anche a quelle persone che con fede lo faranno, il matrimonio è un'offerta di se stessi. Come Cristo ha amato la Chiesa. Cos'è che ha fatto Gesù? Ha annullato la sua vita. Ah, ma quindi mi devo annullare? Sì. Come Cristo ha amato la Chiesa. Io rabbrividisco quando lo Spirito Santo mi dice: come io ho amato la Chiesa. E ogni tanto dico: vada retro, perché sto litigando con mia moglie, allora non voglio sentire queste cose. No, e lo Spirito Santo mi dice: perdona, devi perdonare. devi perdonare. E io dico, no, io ho ragione. Dio, io ho ragione. E lo Spirito Santo mi dice, ma cosa pensi? Che io sulla croce non avevo ragione? No, non lo faccio. Fallo. No, non lo faccio. Fallo, userò le maniere forti. Cosa succede? Una vita d'inferno. Succede che le famiglie si distruggono. Io l'ho vissuto in prima persona. Le famiglie si distruggono perché è difficile perdonare. È molto difficile perdonare. È molto difficile fare come Gesù ha amato la Chiesa. Cos'è? È una sfida. Significa crocifiggere il mio impulso e non usare più il mio metodo di giudizio per giudicare tutto il resto. E noi siamo la sposa di Cristo. A volte noi non vogliamo cambiare. Parlando con alcune coppie, e anche parlando con alcune persone che sono sposate con Dio, alcuni dicono, io sono fatto così. Perdonatemi, io penso che io sono fatto così è una delle frasi meno intelligenti che una persona possa dire. Ma veramente, e ora per usare un, per non depennare niente, è una delle frasi meno intelligenti. E poi che cosa c'è? Promessa, offerta, impegno, impegno, quello che Dio ci sta chiamando. Dio ci sta chiamando a impegnarci. C'è una cosa che le coppie fidanzate devono sentirsi dire, è che un buon matrimonio non è qualcosa che trovi, ma è qualcosa per cui ti impegni. Non è qualcosa, oh che bel matrimonio che ho, no, il matrimonio si costruisce. Qualcuno me lo può confermare? Il matrimonio si costruisce ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, e qualcosa di diverso cambia. Noi dobbiamo renderci conto che la relazione matrimoniale, anche con gli uomini, ma anche con Dio, soprattutto con gli uomini, è una relazione tra persone che amano male. E che cos'è il perdono? È l'amore messo in pratica fra due persone che amano male. Io amo tantissimo mia moglie, ma la amo male. La amo a modo mio, lei mi ama a modo suo. E ci scontriamo. Per cosa voglio pregare questa mattina? Perché l'amore di Dio che Lui ha sparso nei nostri cuori possa agitarsi e noi possiamo iniziare ad amare come Lui ci ha amato. Guardate, come Lui ci ha amato. Quando penso a come Lui mi ha amato, rabbrividisco. E vorrei ristringere un patto con voi. Voglio farlo prima velocemente con le coppie sposate che sono qui. Se sei qui con tuo marito e con tua moglie, non volermene, tanto me ne andrò fra poco. Alzati in piedi, per favore. Se avete ancora le fedi, toglietele. E scambiatevele. Giratevi l'uno verso l'altro. Anche con i piedi. Giratevi. E l'uomo prenda l'anello della donna. Prenda la sua mano. E rifatevi queste promesse davanti a Dio. Uomini, ripetete con me. Ripeti il suo nome. E di il suo nome, e con quest'anello io ti risposo. E prometto di amarti, di esserti fedele, e se necessario dare la mia vita per te, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Con questo anello io ti risposo, nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Ora lei può prendere l'anello di lui e dire il suo nome e dire: con questo anello io ti sposo e prometto di amarti, di esserti fedele, di essere sottomessa a te e seguirti come la Chiesa lo fa con Cristo. Con questo anello io ti sposo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Puoi baciare la sposa. Ora chiedo a tutti di alzarvi in piedi con me e concluderemo insieme. Tutti stanno cercando di distruggere il matrimonio. Quello che ho fatto non è soltanto qualcosa di carino. Fuori stanno cercando di distruggere il matrimonio. Nelle scuole dei vostri figli stanno cercando di distruggere il matrimonio. Il diavolo, con una sessualità perversa, sta cercando di distruggere il matrimonio. Questo sta succedendo. È la Chiesa in questo momento che si deve alzare e deve dichiarare che noi mostreremo al mondo questo rapporto meraviglioso che Dio ha creato. E voglio concludere con una frase di Evelyn e James Whitehead. Non lo so chi sono, però erano scritte loro. Sono sincero. Molti, oh, ma che citazione. Penso siano importanti. Ripetete con me. Con il nostro matrimonio diciamo alla generazione successiva che cosa sono per il cristiano il sesso, il matrimonio e la fedeltà. Siamo profeti nel bene e nel male per quanto riguarda il futuro del matrimonio cristiano. Ora chiudi i tuoi occhi con me. Mi sento lo Spirito Santo che sta dicendo ad alcune persone che sono qui: non puoi essere sposato con me solo 2 giorni a settimana. Non puoi essere sposato con me solo 2 giorni a settimana e per tutta la settimana mi tradisci con altri. Ho bisogno di una Chiesa fedele. Ho bisogno di una Chiesa passionale. Ho bisogno di una Chiesa innamorata. Innamorata. Innamorata. Innamorata. Non lo so se tu stai bollendo o no di amore, ma questa mattina, se desideri ancora di più, se desideri che Dio si manifesti ancora di più nella tua vita, e credo che ognuno di noi debba farlo, se desideri questo vero amore nella tua vita, forse vieni in chiesa da 20 anni, da 2 mesi, non importa, se desideri vivere l'amore, è Dio. Molti chiedono: Dio, dammi più amore. Una preghiera sbagliata è: Dio, dammi più di te. Se vuoi fare questa preghiera questa mattina e vuoi dire: Dio, voglio migliorare in te e con te, alza la tua mano mentre adoreremo Dio. Io ho finito e tutto dipenderà dalla tua dichiarazione. E mentre canterai questa canzone, tu dichiarerai nel mondo spirituale e dirai: Dio, dammi più amore. Dammi più amore, Dio. Say.